e secondo me, nella mia idea, rappresenta la biblioteca, cioè rappresenta la capacità di dare uno sguardo diverso. Infatti, quando tu mi dicevi dove ti soffermeresti, io nella biblioteca, dico ancora nella mia biblioteca, ma non è più la mia biblioteca, mi soffermerei su tutti quei libri che danno fanno vedere il mondo con degli occhi diversi. Camaradas e compatriotas, neste momento em que começamos o novo ano de vida e de luta e o nosso combate pela independência do nosso povo africano. Il centro Amílcar Cabral è una biblioteca, un luogo di studio, di riflessione e di dialogo. Ci parla di Africa, America Latina, Asia, ma soprattutto ci parla di pratiche di relazioni internazionali. Questo posto ha compiuto 50 anni e in questo podcast vi raccontiamo pensieri, emozioni e scintille che hanno dato origine nella Bologna degli anni 70 a un centro studi intitolato al leader rivoluzionario africano Amílcar Cabral. Parlare di cultura, specialmente in Italia, può voler dire tante cose e spesso in contraddizione una con l'altra. Ci vengono in mente i monumenti importanti soprattutto per i turisti, il calo vertiginoso di lettrici e lettori, oppure i discorsi populisti che dipingono come snob chi si appassiona di libri e di arte. La cultura a volte è un vanto per le città. E lo è indubbiamente per Bologna, che conserva e valorizza un patrimonio culturale di qualità. Certo è che anche qui la cultura non è solo bellezza o studio, anche sotto le due torri le contraddizioni sono tante. Spesso cultura vuol dire lavoro povero, se non gratuito, appalti, definanziamento, apparenze invece che competenze. Le politiche culturali, nei loro vari aspetti, continuano ad avere fortunatamente un ruolo importante. E ci chiediamo come cambierà questo ruolo in una città sempre più respingente per fuorisede e giovani lavoratrici e lavoratori che sono stati linfa vitale anche per quella specifica capacità di fare cultura istituzionale ed underground tipica della nostra città acquisita. Anche il contesto globale ci interroga sull'importanza di un reale accesso al sapere. E di come questa opportunità ancora spaventi i poteri reazionari. Nel marzo del 2025, Donald Trump ha richiesto l'eliminazione dell'Institute of Museum and Library Service, l'unica agenzia federale a supporto delle biblioteche negli Stati Uniti. Di fronte a tutto ciò, la retorica sulla bellezza dei monumenti o l'importanza di leggere è a dir poco fastidiosa. La cultura, infatti, è un insieme di politiche fatta di competenze e passione che va curato nel tempo e non è qualcosa di neutro. In questa puntata andiamo al cuore del nostro attore principale, raccontando l'evoluzione del Centro Cabral attraverso la sua biblioteca. Seguire lo sviluppo del Cabral, raccontando della sua biblioteca e delle iniziative culturali, vuol dire anche vedere come la società e il rapporto con la cultura è cambiato negli scorsi decenni. Um tempo, um tinta acrescentar, isto vida já virá da matar. Até já correu hoje na estancha, já pisa a bola, vai estar na canja. Il centro studi Amílcar Cabral, con uno sguardo specifico rivolto alle lotte dei popoli asiatici, africani e latinoamericani, dal 1975, quando viene fondato, è immediatamente parte di una nuova ondata di politiche culturali, di fondazione e consolidamento di istituzioni culturali di qualità e di consorzi di pubblica lettura, a Bologna e in tutta la regione Emilia-Romagna. È negli anni 70 che nuove idee in merito alla cultura si fanno avanti. Questo decennio rivoluzionario è caratterizzato dai movimenti sociali, giovanili, studenteschi, femministi e operai, dall'azione collettiva diffusa e da molte riforme. Ma la rivoluzione negli anni 70 si fa anche attraverso la cultura e la sinistra, anche quella di partito, sperimenta politiche culturali nuove. Nel 1983 il Centro Cabral rinnova il suo statuto e i suoi obiettivi, come si legge nell'articolo 1. Il Centro Cabral ha lo scopo di sviluppare la conoscenza dei problemi internazionali, con particolare riguardo ai paesi di nuova indipendenza, in via di sviluppo o in lotta per la conquista della libertà e l'indipendenza nazionale. E ancora nell'articolo 2, e basa la sua propria attività nei principi democratici tradizionali della nostra città per l'affermazione e il rispetto della libertà, dell'autodeterminazione, dei diritti dell'uomo e della pace. A metà degli anni Ottanta, il patrimonio documentale per lo studio di Asia, Africa e America doveva essere organizzato e valorizzato. Arriva quindi al Cabral Elena Tripodi, che è stata responsabile della biblioteca fino al 2022. Siamo andate a trovarla per ripercorrere insieme, scaffale dopo scaffale, che cosa è stata la Biblioteca del Cabral, vera e propria porta del centro, attraversata da giovani studentesse e studenti, ma anche da un pubblico non accademico. Era una struttura stranissima, cioè un unicum, una specie di mostro da un punto di vista giuridico, nel senso che c'era un comitato direttivo e questo comitato direttivo all'inizio era fatto da politici. Il Cabral era stato immaginato dal PC, quando Bologna era PC, un comune rosso, come una specie di prolungamento dell'ufficio esteri. Poi le cose lentamente, politicamente, sono cambiate, l'ideologia, la presenza ideologica cominciava a venire meno negli anni, fine anni 70, inizio anni 80, c'è stato il periodo della fine delle indipendenze, delle colonie portoghesi che si decolonizzavano, che appunto quello del periodo di Cabral che era stato insomma molto sentito, ma poi piano piano tutto il discorso ideologico veniva meno. Per cui cioè, io sono arrivata più o meno in questo periodo, metà fine anni 80. Io ero già bibliotecaria, nel senso che avevo vinto un concorso Consorzio Provinciale di Pubblica Lettura, quindi lavoravo nelle biblioteche di pubblica lettura. Conoscevo Gianni Sofri, che insegnava all'università, ma aveva un incarico anche dentro il Cabral, che mi chiese, e il Cabral era una biblioteca un po', insomma, un po', non c'erano bibliotecari, non era una cosa strana all'epoca, cioè, mi chiese di fare un progetto di revisione, di ristrutturazione della biblioteca, di rilancio, che io feci, che lui guardò anche con Anna Maria Gentili, che era un altro del comitato, che avete già conosciuto, del comitato direttivo, insomma, un progetto che piacque, quindi mi hanno chiamato dal comune di Bologna, dal Consorzio Provinciale di Pubblica Lettura, e quindi io ho cominciato questa avventura al Cabral. Oggi la Biblioteca Amilcar Cabral, sotto la guida di Simona Brighetti, è un unicum nel panorama nazionale ed è parte del settore biblioteche e welfare culturale del Comune di Bologna. Conserva un patrimonio di oltre 48.000 volumi e 400 periodici e alcuni fondi speciali, tra cui il Fondo Guerrino Lasagni sul colonialismo italiano e l'Africa orientale italiana e il Fondo Paul Sebag sulla Tunisia e il Nord Africa. Nel tempo si è consolidato anche una credibilità, diciamo, del Cabral, nel senso che quello che è stato importante per noi è che non è mai stato un contenitore, anche per le iniziative, non è mai stato un contenitore quello che veniva, si faceva. C'era sempre uno del comitato scientifico che coordinava, che raccoglieva, che riportava ai temi di interesse, alle metodologie, insomma. Quindi era un lavoro abbastanza coordinato e articolato, la gente sentiva che c'era un interlocutore, cioè che quel posto non era un contenitore ma un interlocutore, e questo credo che sia molto importante, e questo era un approccio condiviso con tutto il comitato scientifico. Nel tempo gli ambiti di interesse si sono ampliati, arrivando a occuparsi di tutte le culture extraeuropee e di altre tematiche urgenti come migrazioni, decolonizzazione, diritti umani, razzismi e razzializzazione, ambiente e crisi climatica, letterature e racconti di viaggio. Passando alla nuova sede, ci sono state anche, abbiamo fatto proprio un lavoro di ricerca di nuovo pubblico anche, cioè oltre quello specializzato che avevamo noi, anche giornalisti, anche, devi calcolare che è un'unica biblioteca, nel senso che non esiste in Italia un'altra biblioteca specializzata sull'Asia, sull'Africa, l'America Latina, non esiste, insomma, l'unica pubblica. Non va sottovalutato che nel frattempo stanno cambiando molte cose, perché All'inizio era anche proprio la disciplina che era più di nicchia, erano poche le persone che studiavano e che si occupavano di, certo, l'università, chi sceglieva di fare quegli esami, però era molto meno di interesse comune questa cosa. Dopo, con la globalizzazione, l'immigrazione, le torri gemelle sono state un'esplosione di ovviamente l'interesse è diffuso molto più, per cui noi abbiamo cercato di intercettare anche questo pubblico. La cosa su cui abbiamo sempre lavorato molto, grazie al fatto che appunto c'era questo dialogo, questo lavoro collettivo, e quindi la gente, tutti noi eravamo formati, avevamo una capacità di reference molto elevata, insomma li curavamo molto questi, e quindi abbiamo fidelizzato. E poi l'altra cosa è che abbiamo aperto la sezione narrativa, però l'abbiamo come istituzionalizzata e messa in una stanza specifica, perché per conoscere spesso e volentieri i romanzi funzionano, vanno più al cuore di tanti saggi e sono più immediati, quindi anche quello è stato una... Nel frattempo in Italia hanno cominciato a pubblicare libri su e di autori di paesi di Asia, Africa, America Latina, cosa che prima era la letteratura era molto, avevamo molto in inglese e francese. Adesso siamo sempre indietro, però insomma, ovviamente, con tutte le trasformazioni del mondo, chiaramente anche l'editoria si è adeguata, quindi insomma anche il fatto di avere più libri in italiano, anche questo ha aiutato. Il Centro Cabral negli anni si è aperto sempre di più alla cittadinanza, tenendo insieme il ruolo di ricerca e di studio con quello di divulgazione e sensibilizzazione. Questa volontà si è concretizzata nelle innumerevoli iniziative culturali che si sono susseguite nelle sedi prima del Baraccano e poi, dal 1993, in quella di Via San Mamolo, ma anche nelle reti locali e internazionali con enti culturali affini e soprattutto con la creazione della biblioteca. Una biblioteca che non solo organizzava il materiale documentale necessario allo studio specialistico, ma che metteva a disposizione di tutte e tutti un patrimonio unico e originale. La biblioteca è proprio quella soglia tra la curiosità e il sapere, tra la scientificità e la divulgazione. Abbiamo chiesto a Elena di ricordare uno dei tanti eventi a cui ha partecipato. Sono state tante cose, questa cosa... enormi per noi, per le nostre scarse rapporti, tipo le mostre, questa, poi ne abbiamo fatta anche una sulla schiavitù recentemente, ma una cosa che mi da ricordare è un ciclo di incontri, perché la cosa che non che cercavamo di fare era non solo presentazione di libri, perché io trovo che si presentano troppi libri nelle biblioteche, no? è più attività da libreria che non... Sì, sì. E invece progettazione di iniziative culturali, un ciclo di racconto che aveva fatto Marcella Emiliani, di viaggiatrici tra 8 e 900 che hanno viaggiato in Oriente, da Gertrude Bella, Vita Sacquiluesta, e lei cercava una specificità femminile nel loro approccio, a parte Gertrude Bell che se l'è inventato proprio il Medio Oriente, quindi era e che è conosciuta, ma forse non a sufficiente, però insomma era stato un ciclo di incontri bellissimo, proprio con un contenuto totalmente, secondo me, innovativo e molto molto appassionante. Il Cabral e i suoi libri non solo ci portano lontano, ma mettono in discussione il nostro punto di vista, la nostra idea di neutralità e di centralità, fino a ribaltare le mappe. Una volta mi avevano fatto un'intervista e mi avevano chiesto un libro che rappresentasse la biblioteca, che è stato... ci ho pensato un sacco, perché sì, con tutti i libri meravigliosi ci sono, uno che rappresenta... Allora, avevo selezionato proprio un libro di Bernard Lewis che si chiamava i musulmani alla scoperta dell'Europa, che per me era stato una sorpresa, perché quando sono arrivata ero convinta che la storia fosse quella, invece era un ribaltamento totale di prospettiva, perché lui analizzava gli storici musulmani dall'alto medioevo fino al Settecento, e come ci vedevano noi, cioè noi sempre pensati come quelli che vanno a portare la civiltà, invece loro, cioè, insomma, era stato un libro per me illuminante e secondo me, nella mia idea, rappresenta la biblioteca, cioè rappresenta la capacità di dare uno sguardo diverso. Infatti quando tu mi dicevi dove ti soffermeresti, io nella biblioteca, dico ancora nella mia biblioteca, ma non è più la mia biblioteca, mi soffermerei su tutti quei libri che danno fanno vedere il mondo con degli occhi diversi, per esempio appunto questo, gli storici arabi delle crociate, l'Oceano Guscio d'Ossica, sono i viaggiatori cinesi che erano venuti in Occidente, avevano visto i nostri e studiato e letto i nostri costumi, insomma tutti questi sguardi rovesciati che ti danno l'idea che non sei tu il primo, il solo, il migliore. Tra i documenti della biblioteca troviamo un ricco patrimonio di riviste e alcune esperienze nate grazie all'appoggio del Cabral sono state non solo la scrittura di articoli, ma anche momenti di formazione e condivisione. È il caso della rivista Africa e Orienti, della quale ci parla Corrado Tornimbeni, docente di storia e istituzioni dell'Africa dell'Università di Bologna. Allora, io l'Africa e Orienti ho fatto tutto. Cioè, io ho iniziato come studente, quello che si dice, correttore di bozze. In un'epoca, cioè il mondo, diciamo, anche è cambiato, in un'epoca in cui gli articoli arrivavano in forma di manoscritti, ma non metaforicamente, fisicamente, venivano spediti per posta, scritti a mano, a volte non sempre, e noi ci occupavamo di riscriverli. Ecco. Quindi ho cominciato. Poi sono arrivati i floppy disk. Poi ecco, per dire, ecco, poi pian piano sono cresciuto anche professionalmente, eccetera, e sì, a un certo punto sono diventato caporedattore e poi anche direttore insieme ad altri colleghi, prima con Mario Zamponi e poi con Arrigo Pallotti, che hanno accompagnato il mio percorso, e per tanti anni ho tenuto la direzione e ultimamente sono rimasto, ovviamente, così c'è stato finalmente, diciamo, un ricambio. Adesso ci sono quattro direttori, due direttrici con cui continuiamo a collaborare, eccetera. Africa Oriente, allora sì, nasce nel 1999 da un gruppo che proveniva da una precedente esperienza e che si incontrava anche a Cabral, infatti prende sede fisicamente al Cabral, un gruppo diciamo molto ampio, variegato sia a livello di persone, di esperienze, di discipline, eccetera, ma che aveva due assi fondamentali che erano l'Università di Bologna e l'Orientale di Napoli. Questi erano i due assi principali che hanno messo su questa quasi una famiglia, allora, interessate allo studio, all'approfondimento della realtà sociale, politica, culturale dei paesi africani e del Medio Oriente, diciamo, perché si chiama Africa e Oriente. Questo Oriente è sempre stato un po' elastico, diciamo, Medio Oriente, poi i cosiddetti Stan, cioè fino agli Afghanistan, Turkmenistan, eccetera, ecco, quella era l'area principale. È nata nel 1999 e si è evoluta come si è evoluta anche l'Accademia in Italia, quindi nel corso degli anni è diventata una rivista sempre più collegata a quello che è il mondo accademico, e adesso è una delle principali riviste italiane accademiche che si occupano della storia, della società, della politica dei paesi appunto africani e principalmente del Medio Oriente. È stata un'esperienza bella, nei primi anni, diciamo, quelli più gagliardi. Abbiamo organizzato anche dei festival, delle feste, perché l'Africa Oriente ha questa particolarità: è rimasta da allora una rivista, pur essendo una delle riviste riconosciute di prima fascia, rivista accademica, ma non legata a formalmente a una università. La proprietà della rivista è di un'associazione che si chiama ugualmente Afeche Orienti, e che appunto collegava, soprattutto nei primi anni, alle attività scientifiche della rivista, anche quelle appunto più, diciamo, di divulgazione, come presentazioni, incontri, spesso al Cabral appunto stesso, dove noi stavamo, ma anche in giro. Abbiamo fatto anche una festa un anno molto grande, una cena con cibi africani. Io ho cucinato in una cucina di un ristorante di alta fascia, cibo africano, sotto, diretto da altri, ma insomma sono stato lì a affettare cipolle, questo per dire insomma cosa facevamo, ecco. E è una rivista internazionale, abbiamo pubblicato in passato principalmente in italiano, ma anche tanti numeri in inglese, in francese, qualcosa in portoghese, per collegarci al discorso del Cabral, colonia portoghese. Abbiamo fatto anche cose che celebravano le indipendenze delle colonie portoghesi, e abbiamo fatto addirittura noto un numero in Swahili, una delle lingue africane, una delle più diffuse, diciamo, in una certa parte dell'Africa. Oggi c'è il problema di articolare questa esperienza con quello che è diventato una struttura sempre più rigida dell'Accademia Italiana, e sempre più complicata, però rimane secondo me un'esperienza appunto molto importante, tant'è che appunto la proprietà rimane di un'associazione indipendente dalle varie università, eccetera. In Guinea-Bissau, il Partito Africano per l'Indipendenza della Guinea di Capo Verde controlla la stragrande maggioranza del paese e deve costruire un sistema di governo che riesca a far funzionare delle zone che sono uscite stremate dalla guerra contro i portoghesi, continuando però a mantenere alta la fiducia da parte della popolazione verso il movimento di liberazione. Amilcar Cabral ha sempre avuto questo pensiero in mente, sin dall'inizio della guerriglia. La resistenza deve occuparsi dei bisogni delle persone, deve essere in grado di convincerle e deve promuovere un percorso di crescita che porti donne e uomini della Guinea a essere protagonisti della nuova società. Lo aveva già detto chiaramente nel 1966. La dinamica della lotta richiede la pratica della democrazia, della critica e dell'autocritica. La crescente partecipazione del popolo alla gestione della propria vita, l'alfabetizzazione, la creazione di scuole e servizi sanitari, la formazione di quadri provenienti da ambienti contadini operai e molte altre conquiste che implicano una vera e propria marcia forzata della società sulla strada del progresso culturale. Per cui subito vengono aperte scuole, ospedali, spazi di discussione assembleare in ogni nuovo territorio conquistato al nemico, a cui devono partecipare anche gli stessi guerriglieri. A far insistere Cabral su questa linea non è però solo una profonda fiducia nel suo popolo e nella capacità emancipative dell'educazione. C'è una profonda paura in lui che affidare tutto il potere alla componente militare possa aprire la strada alla guerra civile dopo l'indipendenza. Basti per tutti il caso e l'esempio dell'Algeria. Malgrado le aspirazioni di Cabral, però, è ancora la dimensione della battaglia a dettare l'agenda della politica in Guinea-Bissau. Nel novembre del 1970 le forze armate portoghesi tentano un colpo di mano lanciando l'operazione Mar Verde. Nel giro di una notte però l'attacco viene sventato e le autorità portoghesi si trovano a gestirne il contraccolpo a livello internazionale. Il caso della Guinea-Bissau finisce direttamente sul tavolo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Alla fine, nel 1972, il Partito Africano per l'Indipendenza della Guinea di Capo Verde, che ha anche promosso l'elezione di un'assemblea costituente dei territori liberati, viene riconosciuto internazionalmente e a livello istituzionale come unico legittimo rappresentante dei popoli di Capo Verde e di Guinea-Bissau. Tutto bene, insomma, no? Non è così. Cabral ha paura e ripete spesso: «Se qualcuno mi farà del male, sarà qualcuno che è qui tra noi». Nessuno può distruggere il Partito Africano per l'Indipendenza della Guinea di Capo Verde, solo noi. Malgrado l'indipendenza non sia ancora raggiunta, già stanno emergendo infatti fratture tra le aspirazioni dei guineani e capoverdiani. Inoltre, malgrado gli sforzi del leader, sono intuibili dietro la facciata dell'unità nella lotta tornaconti personali, arrivismi, brama di potere, dei quali cercano di approfittarne i servizi segreti portoghesi che non hanno mai abbandonato il progetto di farlo fuori. Questo avviene il 20 gennaio. Amilcar Cabral sta tornando nella sua casa, nella periferia di Conakry, dopo un ricevimento all'ambasciata polacca, quando si iniziano a sentire colpi di proiettile sparati contro la vettura che lo trasporta. Scendono da una jeep uomini armati che gli ordinano di seguirlo. Lui rifiuta, allora tentano di legarlo. La scena ha qualcosa di epico. Cabral si rifiuta ancora una volta, ammonendo i suoi aggressori che la loro lotta nasceva proprio per eliminare anche quella pratica portoghese di legare chi avesse la pelle nera. Non è un caso che Cabral dica queste cose, ha sicuramente riconosciuto dei suoi guerriglieri in chi lo sta minacciando, in particolare avrà identificato la guida del gruppo, cioè Innocenzo Cani, un veterano della lotta di liberazione. Poi una raffica di mitra, un'altra, e la vita di Amilcar Cabral finisce. Per quanto inizialmente le autorità di Lisbona prendano le distanze da questo delitto, la rivoluzione dei garofani porterà alla luce la mano della PIDE, cioè della polizia politica portoghese, nell'armare il comando di Inocenzo Cani. L'assassino di Amilcar Cabral, leader del movimento di liberazione della Guinea-Bissau e forse il più prestigioso, probabilmente il meglio preparato, fra i dirigenti delle organizzazioni africane che si battono contro il colonialismo portoghese, ha suscitato profonda emozione e indignazione tra tutte le forze democratiche di ogni parte del mondo. Così apre il giornale L'Avanti in Italia il 23 gennaio 1973. Ma titoli simili li si possono trovare in ogni parte del mondo, tanto su testate di sinistra quanto su quelli che allora venivano chiamati i giornali borghesi. Per quanto oggi alcuni in Occidente dicano che alla fine anche Cabral sarebbe finito come uno dei tanti presidenti in un paese a partito unico, quello che è sicuro è che la Guinea, Bissau e l'Africa persero con quell'omicidio uno dei leader più lucidi e più importanti dell'intera lotta al colonialismo. Na yara moch el tatem cherara pakoch ma wosh na banyara nya hema so yak mayere moch fema un tim pun tinta crescenta wish vida ja brata mata ate jan corre wosh na stancha na pisa bola pata na kanja. Custo vida já brata matar, até já correu hoje na estancha, da pisa a bola para estar na canja. Todo coisa agora está mudando, todo coisa está mudando, até aquele vidinho de minha jova, de te pintar para bravas novas. Coisa tá modernizada, até que ele vidinha tinha chova e tá pintada pra mais nova. The job of progressives and revolutionaries everywhere is to hasten the death of imperialism. Cinquant'anni oltre i confini è una serie podcast realizzata da Radio Van Loon per la biblioteca Amilcar Cabral, settore biblioteche e welfare culturale del Comune di Bologna. Potete riascoltare le puntate su tutte le piattaforme e nei link in descrizione. Fonti bibliografia in sinossi.